Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. L'evasione impossibile di Sante Noter Nicola, parte nona. Qualche giorno dopo, Piero e io partimmo per un giro nel Biellese a Milano. Era un'esplorazione per il futuro. L'idea era di agire nuovamente nell'autunno e per tutto l'inverno. Era bene cominciare a dare un'occhiata in giro. Raccogliemmo un buon numero di osservazioni che ci sarebbero state utili per il futuro. Poi ci ritrovammo con Danilo. Calcolammo le spese di ciascuno. Avevamo tenuto dei conti precisi, comprendendo i viaggi di Danilo dalla Svizzera, le telefonate, il giro d'esplorazione e le giornate di lavoro perdute. Mi toccarono circa 200.000 lire, sufficienti a portare a casa i soldi per mangiare e reintegrare la liquidazione intaccata. I miei non dovevano sapere che ero senza lavoro, e neppure gli altri. Sarebbero stato pericoloso. Questa riguardava pure i miei compagni. Ne parlammo a lungo, certo, e concludemmo: dobbiamo avere un lavoro, ma un lavoro che possa darci libertà di movimento. La fabbrica non serve. Danilo era a posto per quello. Tra poco sarebbe tornato a lavorare in Italia. I suoi impegni gli avrebbero dato un po' di mobilità. Piero annunciò che sarebbe tornato a fare l'artigiano con suo padre. Così sarebbe stato libero e disponibile. Io avevo trovato un posto a Lasci e decisi di approfittarne. Rimanemmo d'accordo che ognuno per proprio conto avrebbe studiato dei buoni obiettivi. E a ottobre avremmo attaccato di nuovo. I soldi non si toccano, decidemmo, finché non avremo la somma necessaria per passare ad azioni di guerriglia. Il mese dopo ci incontrammo tutti e tre, come d'accordo. Io e Piero ci eravamo visti ogni tanto e avevamo elaborato parecchi progetti in comune. Danilo ci fece sapere che voleva parlarci e fissammo un appuntamento. Era pieno di idee nuove, progetti da fantascienza, come li chiamava Piero, che contemplavano l'assalto al casinò di San Vincent o di Sanremo, e cose simili. Bellissime idee, ripeteva Piero, fedele invece alle azioni bancarie. Però non ce la facciamo, capisci, per ora. Sono tutte operazioni che esigono un minimo di 5 o 6 uomini e un sacco di preparativi e basi d'appoggio e mezzi. Si cominciava una discussione che sarebbe andata avanti per anni, ma Danilo aveva in serbo anche altri progetti per l'immediato. È verissimo quello che dici, però le banche non rendono a sufficienza, i pericoli sono molti, bisogna trovare il modo di fare una o due azioni al massimo, grosse e importanti, e poi smetterla o ci beccano, capite? Ma per fare quel che dici sono necessari mezzi e uomini. Ecco perché dobbiamo toccare alcune banche prima e poi troveremo gli uni e gli altri. Insomma, era un circolo vizioso. Ecco che Danilo propose di uscirne in un modo nuovo. Smettiamola con le banche. Ci penso io a far rendere bene il denaro preso in via Vigliani. Restano più di 4 milioni. Ho avuto delle proposte per il mio lavoro. Roba interessante. Metto su un'impresa, prendo il lavoro in appalto, si guadagna un sacco. In un anno avremo almeno 10 milioni, invece di quel che abbiamo ora, e così potremmo saltare il lavoro piccolo e preliminare, quello della banca. Tanto disse e tanto fece che ci convinse. Gli lasciammo il denaro. Danilo era onesto, era un buon compagno. Io lo conoscevo bene. Avrebbe fatto del suo meglio. Purtroppo non riuscì nel suo intento. Ci furono intoppi e avversità. Controllammo tutto poi, mesi dopo, per filo e per segno. Danilo era stato corretto. Aveva lavorato come un dannato. Ci aveva pure rimesso. ma non era riuscito a sfondare. Non ci furono discussioni per questo, ma l'errore di impostazione venne attaccato a fondo. Piero si incazzò molto. Che ci voglia una copertura, cioè un lavoro o un'attività che ci permetta di agire liberamente è giusto, e se è necessario si spendono anche soldi per questo. Sono spese generali inevitabili, ma non possiamo fare gli imprenditori. Quello non è il nostro mestiere, facciamo i guerriglieri e basta. Questa era la mia opinione. Non mi sentivo la stoffa del capitalista e capivo che neppure Danilo, nonostante la sua abilità, era tagliato per far soldi, sfruttando gli operai, anche se poi questi soldi dovevano finanziare un lavoro politico. In conclusione, eravamo al punto di partenza, con in più i debiti di Danilo da pagare. Un bel guaio. Eravamo già alla fine di novembre. Va bene, conclusi. Quel che è stato, cerchiamo di andare avanti e di non fare casini. Ormai ero convinto che si dovesse continuare e non volevo che questioni marginali ci facessero dimenticare l'obiettivo. Avevamo già perso 4 anni in questo modo. Ricominciamo da capo, proposi. Attacchiamo un paio di banche, cerchiamo di raccogliere un po' di soldi, come dice Piero, e poi ce ne serviamo per realizzare il lavoro grosso come vuole Danilo. Ma diamoci da fare, altrimenti fra una cosa e l'altra le azioni di guerriglia vanno a farsi benedire. Piero colse la palla al balzo. Ho studiato una banca in piazza Rivoli, è un buon lavoro, ha una buona via di fuga. Ho anche notato che ogni mattina arriva il furgone che porta i sacchetti dei soldi. Sono stato dentro la banca un giorno con una scusa e ho visto che c'era un bel gruzzolo. Forse basterà un lavoro solo, se va bene, e potremmo passare subito alla seconda fase del programma. Danilo, abbacchiato per l'insuccesso e i debiti, non fece obiezioni. Andammo a vedere. Tutto era in regola. Corso Francia era molto pericoloso, sempre pantere che andavano su e giù, ma agendo con velocità ce l'avremmo fatta. La banca poi si prestava molto. Qualsiasi cosa fosse capitato, se riuscivamo a saltare in macchina, nessuno avrebbe potuto bloccarci. L'unico pericolo era il benzinaio davanti all'ingresso, ma era un pericolo facilmente superabile. Bastava entrare senza farci notare, con calma, come clienti qualsiasi. Decidemmo di agire prima di Natale, ma alcuni contrattempi lo impedirono. La cosa si trascinò fino a gennaio. Nel frattempo mi licenziai dall'Automobile Club. Nessun lavoro ho mai odiato come quello, 40.000 lire al mese. Quello che più mi mandava in bestia erano le mance. C'era voluto qualche mese prima che mi abituassi all'idea di prenderle, ma prima che mi licenziassi m'era successo un episodio determinante. Era dicembre e già gli amici premevano perché lasciassi il posto. L'assalto di Piazza Rivoli era già pronto. Tentennavo un poco, finché incontrai Loretta. Era figlia di un generale o di un colonnello. Avevo filato per un'estate, anni prima con Loretta. Poi ci eravamo persi di vista. Quella sera ero al lavoro, davanti al cinema Corso. Pioveva forte. Ero appena entrato in servizio ed ero già tutto bagnato. Posteggia una 500, vedo una ragazza e mi precipito, un po' per un senso di gentilezza offrendole l'ombrello, ma anche per guardarle le gambe. Lei ringrazia, prende il biglietto di abbonata e mi mette in mano 100 lire, mancia. Vedo che mi scruta in viso e dice: «Ma io questa voce la conosco». Rispondo che col mio lavoro era facile trovarmi in giro. Non mi sembra convinta e attraversando la strada ci fermiamo davanti al bar, dove c'era più luce. Il riconoscimento fu immediato e reciproco. «Tu sei Sante e tu sei Lorette». Le 100 lire mi bruciavano nella mano, le stringevo con tanta violenza che se ne accorse. 10 minuti dopo lei se ne andava, io lasciai nel bar borsa, berretto, biglietti e tutto il resto, incaricando il barista di consegnarli all'ingegnere, addetto al controllo se passava, se le custodisse lui, le sue macchine. Ero completamente libero adesso, potevo così dare efficacemente una mano a Piero e in tutto ciò che concerneva la preparazione dell'assalto. Provammo e riprovammo parecchie volte i percorsi, le armi, il travestimento, insomma, tutti i particolari connessi all'operazione. Escogitammo nuovi tipi di bavaglio con l'elastico perché fossero più facili da mettere e togliere. Andai a controllare le informazioni sul movimento interno della banca e sull'orario del furgone. Tutto era a posto, non c'erano variazioni. La zona era sempre affollata, ma quello non era un ostacolo. Anche l'interno della banca era piuttosto ampio, con parecchi impiegati e parecchi clienti, ma avevamo già esperienza di queste cose. Poi mi venne un'idea. Siccome ero stato sempre io ad aspettare fuori vicino alla macchina, mi ero reso conto che questa, se disposta in un certo modo, non correva pericoli. Bastava che fosse un po' staccata dalla banca e che nessuno ci notasse entrare. O perlomeno che nessuno collegasse noi o l'azione che si stava svolgendo a una determinata automobile parcheggiata fra le altre. Così avremmo corso meno pericoli e all'interno ci sarebbe stato un uomo in più. Spiegai queste cose a Piero, che fu d'accordo subito. Era sempre alla ricerca di qualcosa che fosse al di fuori dei soliti schemi, proprio perché così era più facile ingannare l'avversario. Abituato ad un certo modo di operare e mentalmente pigro, restii a usare l'immaginazione. Tant'è che vedendoci in tre in banca, tutti pensarono che per forza dovevano essere in quattro. Quando mai in un film di gangster si era vista una macchina lasciata a se stessa? Quando arrivò Danilo eravamo pronti, gli feci riprovare la strada di fuga finché non se la impresse bene in mente. La sera controllammo tutto, Danilo approvò ciò che era stato fatto. Eravamo al 20 di gennaio, nebbia e freddo, un tempo buono per noi. La sera seguente prendemmo la macchina in una zona in cui avevamo notato che questa operazione era molto facile. Toccò a una Fiat 1500. Non sapevamo come fare ad aprire questo tipo di macchina. Danilo spaccò il deflettore con il martello di gomma. Entrò, provò con lo spadino a fare l'avviamento. Non riuscì. Allora fece l'allacciamento dei fili. Salimmo a bordo e portammo l'auto alla barriera di Francia. La parcheggiammo sperando che nella notte non ce la rubassero e per precauzione mettemmo un antifurto. L'indomani ci ritrovammo presto all'auto. Danilo andò a mettere in moto, mentre noi gli facevamo la protezione armata. Non si sa mai. Pensavamo, se c'è qualche poliziotto che vuol fare il furbo, che sta aspettando per vedere chi si avvicina alla macchina, magari stanotte l'hanno trovata e pensano di beccare il ladro con questo trucchetto. Tutto era tranquillo. Danilo venne a prenderci e ci avvicinammo a Piazza Rivoli. Io e Piero scendemmo a una certa distanza dalla banca. Eravamo vestiti in modo da non farci riconoscere da nessuno. Piero col soprabito di nylon, un cappello e gli occhialoni da motociclista. Io avevo un berretto a visiera coi copriorecchi abbassate e un giaccone mal ridotto. Mi fermai al chiosco dei giornali, davanti alla banca. Piero si mise a passeggiare sul viale che tagliava Piazza Rivoli. Danilo andò a posteggiare la macchina, un po' oltre le vetrate dell'agenzia. Scese lasciandola in moto. Sparì alla vista, riapparve dopo un lungo giro alle mie spalle e si portò vicino al benzinaio. Era l'unico ad essere vestito discretamente, proprio per la parte che doveva svolgere. Infatti nessuno lo notò scendere dalla macchina. Aspettammo l'arrivo del furgone, che arrivò con un certo ritardo. Si fermò scaricando dei pacchi, ripartì, per fermarsi all'angolo successivo, davanti a un negozio di ferramenta, e mi fermai anch'io. Eravamo d'accordo che appena partito il furgone saremmo entrati noi. Io dovevo muovermi simultaneamente con Danilo. Piero non vedeva l'ingresso e doveva seguire le mie mosse. Il contrattempo del furgone ci bloccò. I minuti passavano e quelli non si decidevano ad andarsene. Il furgone era scortato dalla polizia. Cominciavo a essere nervoso. Piero dava segni di impazienza. Con lo sguardo gli feci cenno di non muoversi ancora. Finalmente se ne andarono. Partimmo all'attacco, perfettamente sincronizzati, silenziosi. Avevamo anche gli scarponcini di gomma. Davanti alla banca avevamo notato nei giorni precedenti una lieve patina di ghiaccio. Guai se nella fretta di uscire uno di noi fosse scivolato. Una semplice storta sarebbe stata pericolosissima, un incidente molto grave. Potevamo anche lasciarci la pelle per una banale scivolata. Entrammo, prima Danilo, poi io, ultimo Piero. Secondo quanto avevamo stabilito, nessuno fece caso a noi sulla strada, tutto era andato bene, sino a quel momento. Un attimo dopo tutto si trasformò in tragedia, gli accordi presi erano stati molto chiari, entrare tranquillamente. Piero avrebbe dato una mano nel tenere a bada i clienti, mentre io mi sarei occupato degli impiegati e subito dopo avrei dovuto saltare il bancone per impossessarmi dei sacchetti portati dal furgone. Intanto Piero avrebbe arretrato fino sulla porta d'ingresso per bloccare chiunque avesse cercato di guadagnare l'uscita. Danilo avrebbe dovuto occuparsi dei clienti che si fossero trovati davanti alla cassa e poi eventualmente dare manforte a me guardandomi le spalle. L'intesa era di essere veloci, silenziosi, di non usare violenza fisica se non contro gli eventuali nemici, i poliziotti. Per far loro uno scherzetto in più, avevamo pensato di lasciare sulla macchina una cartina topografica di Torino, sulla quale veniva indicato un percorso che toccava alcune banche, numerate con l'indicazione prima, seconda, terza e poi si dirigeva verso l'autostrada e la scritta Autoroute Torino-Milano. Così quel dritto del dottor Sgarra sarebbe caduto nel tranello. Abboccò infatti e cercò francesi dappertutto. Dobbiamo fregarli con l'astuzia, dissi ai miei compagni. E Danilo aggiunse: se arrivano, caro Piero, datti da fare col machine, altrimenti fanno fuori noi. Li conosco. Era nervoso Danilo quel mattino. Non era il tipo di azione che gli piaceva quello. Aveva accettato perché costretto dalle circostanze, però avrebbe voluto fare altro, ecco tutto. Ad esempio, avrebbe voluto attaccare il furgone senza rendersi conto che sarebbe stato ancora più difficile in tre. Cominciò anche per noi un po' di tensione. L'attesa fuori dalla banca era stata troppo lunga, ci aveva irritati. I nervi però erano saldi e tutto sarebbe andato liscio se non ci fosse stato l'eroe. Il solito servo sciocco del padrone che appena entrammo attaccò l'allarme acustico e lanciò contro Danilo un oggetto non so cosa. A noi piaceva la gente coraggiosa anche se era contro di noi e lo dimostrammo in seguito, ma non potevamo soffrire i deficienti, quelli che agiscono fregandosene se per i loro gesti altri sopportano conseguenze gravi. Appena sentimmo la sirena ci gelò il sangue, per un attimo capimmo subito il pericolo al quale eravamo esposti. Ormai ogni secondo in più dentro la banca era un rischio mortale. Non ebbi neppure il tempo di riflettere. Fatti pochi passi, sentii uno sparo, girai gli occhi, vidi un impiegato in piedi, Danilo di fronte a lui. Hanno sparato a Danilo, pensai, e feci fuoco anch'io. L'uomo scomparve alla vista. Danilo passò nel reparto casse, io lo seguii. L'idea di fuggire non ci era passata neppure per la mente. Capii subito che il mio compagno era illeso. Non persi tempo in chiacchiere. Presi i sacchetti, erano aperti, non c'erano soldi, solo materiale di propaganda. Quel giorno, per caso, la direzione centrale non aveva inviato somme alle agenzie. Danilo forzò i cassetti che erano stati bloccati da un congegno elettromagnetico collegato al segnale d'allarme. Le sirene continuavano a suonare agghiaccianti. Piero era corso subito da noi, sentendo gli spari chiese: «Siete feriti?» Gli facemmo segno di no. continuando il nostro lavoro. Lui tornò alla porta e cominciava a raccogliersi gente lì davanti. Quando uscimmo, un folto gruppo di persone era tra il marciapiede e il chiosco di benzina. Ci facemmo largo brandendo le armi. Fu una fuga generale. Saltammo in macchina e ce la filammo senza che ci fosse uno capace di prendere il numero di targa. Poco dopo arrivarono sul posto i giornalisti. Dopo di loro, con calma, la polizia. Abbandonammo l'auto nel posto prescelto. L'avrebbero trovata 8 giorni dopo. Ci separammo, andai a casa. Ero ancora nervoso per quel che era successo in macchina. Danilo aveva guidato bene, aveva mantenuto i nervi a posto, ma vidi che era preoccupato. Non fece commenti, gli sfuggì solo una frase: credo di aver colpito una ragazza. Rimasi sorpreso. Piero disse: ma va là, sono venuto anch'io a guardare nel box e non ho visto nessuna ragazza ferita. Non farti certe idee. Piuttosto pensate che mi sono preso un accidente perché pensavo che foste rimasti colpiti voi da quel pazzoide. A quello lì sì che bisognava spaccargli la faccia, bisognava dare un esempio per impedire che si ripetano queste iniziative incontrollate. Poi al giornale radio dell'Una sentì la notizia: un impiegato e la ragazza feriti. La ragazza era grave. Danilo purtroppo aveva visto giusto. Provai un senso di vuoto. Dovevo vedere i miei compagni. Quella notte dormii pochissimo. Il giorno dopo ci ritrovammo in casa di Danilo. Anche loro erano scossi. Danilo era pallido. Si sentiva in colpa per la ragazza. Avessi ammazzato l'altro non me ne sarebbe importato, se l'era cercata, ma quella ragazza così giovane mi fa una pena, ma chi poteva sapere? Non l'ho neppure notata prima. Piero sentenziò: ormai è fatta, anzi sei stato veramente in gamba e anche sante. Malgrado tutto siete rimasti saldi. D'altronde sono inconvenienti impliciti in questo tipo di azione. La prossima volta può capitare a noi, è la guerra. Ad ogni modo prendemmo altre precauzioni, adotteremo altri accorgimenti. In futuro queste cose non accadranno più. Passammo a discutere sul da farsi. C'erano 3,5 milioni di liquidi. Danilo doveva coprire un disavanzo di un paio di milioni e glieli demmo. Ormai era andata così e non potevamo mollarlo nei pasticci. E poi cosa contavano i soldi? Era ben altro che volevo e per arrivare a questo era necessario essere uniti, anzitutto, e andare avanti con costanza. Non erano 2 milioni che potevano risolvere il problema che mi ero posto. Presi 200.000 lire. Avevo perso un mese, non sapevo neppure dove trovare un altro lavoro. Piero prese altrettanto. Gettammo via le armi usate. Anche il mitra era troppo vecchio, ogni tanto si inceppava. Demmo ancora 500.000 lire a Danilo perché reperisse roba nuova e buona. Dopo un po' di tempo ci riunimmo nuovamente. I carabinieri di Bergamo avevano dato l'assalto a un paese intero. Avevano arrestato un mucchio di gente. Molti avevano confessato di essere gli autori delle nostre azioni. Il maggiore Siani, tronfio e sorridente, aveva trombonato alla televisione il suo successo. Anni dopo sarebbe stato condannato per aver estorto le confessioni con percosse e sevizie. Danilo sghignazzò. Bene, anche stavolta i nostri Sherlock Holmes hanno fatto una puttanata. Noi siamo al sicuro. Quei tali verranno rimessi presto in libertà. È una storia troppo inverosimile. Io e Piero mettemmo l'accento sul significato politico. Era la strada buona. Quando avessimo compiuto azioni di guerriglia, questi metodi sarebbero stati usati nei confronti di centinaia e migliaia di persone. I compagni che dormivano pacifici, credendo nella democraticità delle forze dell'ordine, si sarebbero svegliati, sentendosi bruciare il sedere. Da troppo tempo non sentivamo le delicatezze del sistema. Proponemmo a Danilo di attaccare al più presto. Cominciò a tergiversare con diverse scuse, poi disse che non potevamo agire subito. Era meglio che tutto che si calmasse. Alla fine ammise che quell'azione lo aveva turbato molto, che non si poteva continuare su questa strada, che bisognava cambiare metodi e altre cose. Intanto ero andato a lavorare alla carovana Facchini, a caricare e scaricare camion per Mottura e Fontana, 10-12 ore al giorno. Lì conobbi l'abbruttimento del lavoro, lo sfruttamento spietato. Piero continuò a fare il falegname. Danilo mantenne la sua tesi negli incontri successivi, finché si venne a una rottura, nonostante le mie insistenze per evitarla. Era logico che a un certo momento si dovesse scegliere. Si trattava di attaccare di nuovo prima del bel tempo. Avevamo promesso di farlo, l'avevamo scritto sulla piantina. Era una sfida alla polizia. C'era da assaltare la banca di via Asinari, di Bernezzo. Danilo si rifiutò con energia. «Non sono un pazzo», disse. «Cercate proprio la morte? Non sono d'accordo. Tentiamo di agganciare qualcuno. Semmai, insomma, vediamo un po'. E chi? C'è Adriano. È sempre lì da Natale. Lo conosciamo da anni. È un vasco. Perché non te lo lavori?» domandò a Piero. «Lo posso anche fare, vedremo. Per ora non ho tempo. Dobbiamo agire. Ci stai o non ci stai? Hai portato le armi nuove. Hai speso 500.000 e va bene, ma non basta. Ma in quella banca ci sarà poco. Non importa», risposi io. «C'è la madama che ci aspetta. Perché deluderla? Almeno li vedremo in faccia una buona volta. E poi cerchiamo o non cerchiamo il modo di sputtanarli? Anche con una rapina in banca, fatta in una certa maniera, si ha un risultato politico, no?» Piero mi spalleggiò subito, colse l'occasione per dire: «Hai detto bene, santo e giusto, anche una rapina in banca può essere un atto rivoluzionario». Da quel momento il nostro futuro era segnato irrimediabilmente. Piero aveva trovato una giustificazione alla sua teoria, una guida per l'azione. Si sarebbe attenuto a essa e vi avrebbe insistito fino alla fine. La rapina in banca divenne l'unica attività possibile e accettabile per Piero, che continuò a proporla ogni volta, con forza, in tutte le varianti possibili, sempre mettendo in minoranza Crepaldi, sempre facendo apparire illusoriamente prossimo il momento di passare ad altre attività veramente politiche. Io non seppi contrastare quella linea, anche perché effettivamente c'erano delle difficoltà che non dipendevano da noi e soprattutto per la mia impreparazione politica. Fu così che dopo l'azione di Piazza Rivoli, invece di chiudere o di sospendere momentaneamente l'attività, mi schierai con Piero contro Danilo. La tentazione di beffare la polizia fu troppo forte e tale restò nelle azioni successive per altri 4 anni, finché l'ultima sfida fu così provocatoria da costringere la polizia a giocare la carta disperata pur di fermarci, quella della sparatoria in città, a Milano, fra la gente. Il giorno dopo l'assalto di Piazza Rivoli, davanti alla standa del Rione, incontrai Franca, una bella ragazza che tempo prima frequentava la nostra casa in via Cuneo. Sapevo di non esserle indifferente, ma cercavo di sfuggirla. Non me la sentivo di prendermi un impegno. Da pochi mesi era venuta dal sud con tutta la famiglia. I suoi genitori erano radicati a certe tradizioni dure a morire. Ed essendo Franca l'unica figlia, non le davano la possibilità di fare conoscenze e di integrarsi in un modo di vita diverso da quello del loro paese. Quindi, dopo i primi approcci e i primi baci rubati, non mi ero più fatto vedere, ma quel giorno avevo bisogno di qualcuno vicino, che parlasse di qualsiasi cosa purché riuscisse a distrarmi da quello che era successo il giorno prima. Lei fu felicissima di rivedermi e mi rimproverò dolcemente per il mio modo di fare. Iniziammo a passeggiare per Corso Giulio Cesare e invece di ascoltarla mi misi a parlare. Parlavo quasi volessi stordirmi in un fiume di parole. Certamente dicevo cose sciocche, ma lei se le beveva e sembrava pendere dalle mie labbra. Mi interruppi solo passando davanti a un'edicola. Facevano bella mostra i giornali della sera, con titoli a tutta pagina. Rallentai il passo, pensai di comprarli subito, ma non lo feci. La presi per un braccio e ci allontanammo verso i giardinetti. La vidi sempre più spesso, mi piaceva perché era silenziosa e innamorata. A casa sua le cose non andavano molto bene, si sentiva prigioniera e cominciò ad attaccarsi all'idea di sposarmi. Le dissi che era troppo presto e che doveva pensarci bene. Tempo dopo mi trasferì a Milano, dovevo studiare la città, le banche e tutte le possibilità di fuga. A Torino tornavo il sabato. Andavo a trovarla a casa sua ormai. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che io so ha ridotto già. Libri ribelli.